Fummo, plin, fanchiule, gioia, plan, profumo, belatti, acidità, aerovolassanti, riflessi, ghiali, rossi, rossi, rossi, montagne, colline, selva. Di nebbia, notte, profonda, assaporare, lavare frescurosamente, chiaro sporco di luna. Allegro escherosissimamente.